casa, prendo un bel respiro. Ma cosa importa, non c'è mica fretta, un paio di minuti, allora aspetta un po'. Gli stessi amici sempre ad aspettare, dobbiamo scegliere la scuola e il mare. È una risposta che mi sembra ovvia, tenero e costume, andiamo tutti in spiaggia, dai. Ma cosa ce ne frega, cosa importa a noi? Andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Niente litigi, niente discussioni, almeno noi non resteremo soli. Ferragosto non ricordo un cazzo, oh mio Dio, ho detto una parolaccia, è una fortuna